Palla Spicchi con Carlo Genta. Franco Piantarida in redazione, Paolo Corleoni in regia, Flavio Suardi qui vicino a me. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno e buon basket a tutti. Oggi assente giustificatissimo è coach Dan Peterson. Io saluto e ringrazio Luca Chiavotti, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Invito gli ascoltatori 800240024. Già vi dico che oggi viaggeremo verso sud. Viaggio nel basket campano che ha due facce naturalmente, una che è felice, quella di Avellino, un'altra che comunque ride e sogna, quella di Caserta, e l'altra che piange a dirotto, quella di Napoli, e ne parleremo anche con Luca Chiabotti. Però mi sembra che il caso del giorno, che la settimana delle coppe lascia e conferma, e anzi è quello dell'Olimpia Milano. Sei d'accordo Luca? Olimpia Milano, pessimo avvio di stagione, americana in discussione, pubblico che non c'è, equilibrio neanche. Hacker è notizia di oggi che pare starà fuori 40 giorni, dunque sull'oro del taglio, ma Milano voleva tagliare anche Hall, a mio avviso giustamente. Insomma, tanti soldi spesi, squadra che non c'è e forse è presto per usare la parola crisi? Ma credo di sì, nel senso che anche l'anno scorso Milano ha avuto un inizio simile e poi ha recuperato durante la stagione ed è arrivata in fondo comunque in finale. È vero che non è un bel modo di costruire le proprie stagioni, soprattutto se si ha un obiettivo di vincere qualcosa, perché i treni passano, se ne perdono troppi e poi alla fine tutto può andare bene, può andare male, ma non si costruisce niente. Il problema di Milano è che anche questa volta, per motivi validi o meno validi secondo i punti di vista, comunque ha rifatto la squadra completamente, è ripartita da capo completamente e adesso si trova a dover gestire delle problematiche che, se con Hacker, sono diciamo sfortunate, perché si tratta di un problema fisico, con Ollo sono un po' meno, perché al di là di tutto mettere un giocatore in una situazione difficile è un buon modo perché succeda qualche problema. Certo. E la situazione difficile è che nel momento in cui Milano ha deciso di prendere Mancinelli, anche qui perché si è ritenuto un affarone poterlo prendere senza buyout da Bologna, e quindi un italiano di quel livello senza buyout è stato sicuramente un affare sotto il profilo economico, però se uno mette un giocatore forte in panchina con un altro giocatore che è sempre messo in discussione, poi ruota i ruoli dell'uno e dell'altro, succede che alla fine vanno, certo, male più o meno tutti e due. Magari Mancio non sta andando male, ma sicuramente non sta rendendo come potrebbe rendere. Ollo invece sta decisamente andando male, la testa anche è un bravissimo ragazzo, però ogni tanto va sopra le righe, ed ecco servita la frittata dell'Armani, sì, 2009-2010. Anche se secondo me non sta scritto da nessuna parte che Mancinelli debba per forza fare il cambio di Hall, come è stato detto subito, no? Allora Hall titolare, Mancinelli cambio, e di qui non si esce. Mi sembra una gestione molto rigida di questo dualismo. Mi sembra molto rigida anche la gestione di altre situazioni in casa Armani, ad esempio Finlay, sappiamo che è un realizzatore, però deve fare anche il playmaker. Allora cosa fa, il playmaker o il realizzatore? Mi sembra ci siano tantissimi equivoci. Sì, purtroppo sì, siamo sempre lì, ci sono stagioni che poi si indirizzano verso bene, altre che si indirizzano male. È chiaro che se Finlay, che non è sicuramente un playmaker, ammesso che nel basket moderno esistono ancora determinate figure, perché è difficile trovare, cioè ci deve essere comunque pericolosità in tutti i ruoli del campo, se no si finisce come l'anno scorso con Price, che poi non era pericoloso ed è servito poco. Però Finlay probabilmente con un hacker sano o con un altro giocatore sano di fianco che gli dà una mano, con un cambio, quello che non sia venuto da anni e stagioni difficili, e magari che si senta sempre messo in discussione e poi si fa anche male. Cioè, se la situazione fosse magari diversa, anche il problema fine non se ne accorgerebbe nessuno, avrebbe una spalla in regia e lui potrebbe fare sia un po' il play, sia fare tanti punti. Se comincia ad avere un problema di fianco perché Hacker non sta bene, Masiulli non è certo un giocatore che può dare una mano, certo, al playmaker. E Bullo si fa male e poi siamo sempre lì, Bullo a Milano non riesce mai a rendere quello che rende, allora anche qui si sommano tutti i problemi e la situazione è difficile. Il fatto è che, come dicevi tu, non è che queste siano cose che non potevano essere previste, diciamo che in una situazione del genere era quasi più facile che finissero così che finissero in un altro modo, al di là appunto delle condizioni fisiche di Hacker che, come hai detto tu, sono precarie e porteranno sicuramente a un nuovo americano quantomeno a gettone. Ecco Luca, però un nuovo americano sicuramente a gettone o quasi sicuramente a gettone, ma a questo punto che genere di giocatore? Cioè questo identikit che hai appena fatto, cioè di qualcuno che possa dare per esempio una mano in regia? Un altro playmaker, oppure un altro tipo di giocatore che per esempio possa anche risolvere quello che è il rebus di Hall, e quindi un giocatore che, dalle caratteristiche diverse, e che possa promuovere definitivamente Mancinelli in quintetto e quindi riesca ad accorciare un po' le rotazioni. Cioè, non è neanche facile prendere questa decisione, no, adesso. Non è per niente facile, perché se si prende un playmaker si ammazza Finlay e Mordente. Se è chiaro che credo che la cosa più ovvia da fare sia cercare un giocatore con buone, per quanto riguarda dietro, un giocatore con buone qualità realizzative che possa anche dare comunque una mano e che non sia un esterno puro che non sa passare una palla. Il discorso sotto canestro è molto più complicato, perché effettivamente lì sotto è inutile prendere un altro giocatore delle caratteristiche di Hall. Quindi, premesso che pivot ce ne sono, premesso che ali ce ne sono, perché poi anche Mancinelli in realtà lui nel suo cuore vorrebbe fare certo, l'ala piccola, e non è detto che non sia meglio anche in quella posizione, soprattutto nel basket moderno dove alla piccola e alla grande si scambiano spesso volentieri punti di partenza e di arrivo dei giochi, per cui più o meno possono anche giocare assieme. Lì è veramente il rebus. Qualche è veramente il rebus, stavo dicendo. No, ma è veramente il rebus sul serio, perché comunque, anche perché... Però vedi come siamo qui a parlare di equilibri di costruzione della squadra quando siamo a novembre e il tassametro cuore, due vittorie a fronte di 5 sconfitte per aprire la stagione. Ha detto giustamente Luca Chiabotti prima, sono situazioni però che si potevano in qualche modo preventivare, cioè l'equivoco tra virgolette di Bulleri, la sua situazione, sì. Il dualismo tra Mancinelli e Hall, sono tutte cose che meno male si potevano mettere in conto. È qui che la situazione milanese lascia un po' perplessi, ecco. Ci fermiamo per il traffico, poi vedremo di recuperare se possibile il collegamento con Luca Chiabotti per fare un paio di chiacchiere anche sull'altro caso, secondo me, del basket italiano di oggi, e che è quello che abbiamo accennato, poi ne parleremo in maniera approfondita, quello di Napoli. Traffico. Veicoli commerciali Peugeot, 8 modelli, 100 versioni, fino a 17 metri cubi di volume di carico. Vi presenta Strade in diretta. E un nostro ascoltatore ci segnala un incidente appena avvenuto sulla 4 all'altezza di Montecchio verso Milano. Ancora difficoltà sul tratto urbano, sempre grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, nei pressi della barriera della Ghisolfa verso Milano, in questo caso per un mezzo pesante in panne che sta causando le prime code. Altrove il traffico rimane abbastanza scorrevole, un invito va ancora alla prudenza per le piogge che stanno interessando gran parte delle regioni del centro-nord e anche le autostrade pugliesi. Se avete segnalazioni, il nostro numero verde 800 19 73 13. Noi torniamo con Strade in diretta tra circa mezz'ora. Palla spicchi. Torniamo, ricordo i nostri contatti 800 24 00 24, numero verde, messaggi sms 349 238 6666. Scrive Giacomo: cosa pensate del presidente Meneghin, la vicenda Recalcati, la disgrazia Martos Napoli, la confusione sugli stranieri in Serie A? Dove sono i lati positivi? Domanda Giacomo, non li trovo. In effetti, insomma, c'è un punto sul quale la Gazzetta dello Sport, proprio è tornato Luca Chiabotti, ha solleticato il presidente federale in settimana, ed è quello di Napoli. Come scriveva la Gazzetta l'altro giorno, insomma, nelle pagelline dei buoni e cattivi, Tra i cattivi ha finito proprio Meneghin, che ha permesso, non lui, la federazione, ha permesso il pasticcio, il pastrocchio napoletano. Luca, sei tornato? Sì, sono tornato. E Meneghin se l'è un po' presa, no? Per essere stato individuato come responsabile. È chiaro che è una... quando uno fa una critica a un sistema deve prendersela col capo, no? Quindi so anch'io che probabilmente Meneghin non ha magari determinate responsabilità, però non può essere neanche il notaio, non può essere neanche la persona che non vede, non sente, gli passa un documento sotto mano e lo timbra, perché allora siamo capaci tutti di fare i presidenti della federazione o della Lega. C'era una situazione di una società in forte sofferenza, con i pagamenti dei giocatori, con penalizzata, che non ha, per tutto l'anno scorso, al di là delle garanzie che poi poteva dare o non dare, ha reso un campionato non regolare. Quello che sta facendo anche quest'anno, perché continua a cambiare giocatori, continua a prendere giocatori, continua a mandarli via, prima o poi vincerà 1-2 partite, poi quelle 1-2 partite saranno quelle che magari decideranno il destino, e non è neanche giusto nei confronti di chi invece è andato a passeggiare vincendo di 40 a Napoli. Infatti c'è un messaggio, Luca, che dice: sono tifoso di Caserta, ero a Napoli sabato, sinceramente nemmeno noi ci siamo divertiti. Senza fare paralleli impropri, che senso toglie, vabbè, dice che togliere il basket da Capo d'Orlando e tenere in vita l'ibrido Napoli Rieti, però il tifoso di Caserta dice: non ci siamo divertiti nemmeno noi a dargliene 40 sostanzialmente. Ma chi si può divertire a vedere una partita dove non c'è partita davanti a poche persone, perché a Napoli c'era più gente di Caserta che di Napoli, e con peraltro sempre pochissimi. Quindi siccome la federazione a un certo punto con la Lega ha per la prima volta avallato un cambio di chiamato residenza soltanto di campo, perché la società non si è trasferita a Napoli, è la società di Rieti che per problemi di campo o presunti tali ha chiesto il trasferimento a Napoli. Allora, a quel punto, prima di fare una cosa di questo genere, prima di concedere queste cose, probabilmente sarebbe stato meglio chiedere delle garanzie molto più grandi, serie, e perché non si arrivasse a questo punto. Certo. Non è stato fatto, si sapeva che anche qui il problema grosso della pallacanestro italiana è che spesso le cose che succedono sono prevedibili. Allora, siccome si sapeva anche qui quale fosse la situazione degli ultimi anni, bastava probabilmente pretendere, per dare una cosa nuova, per dare questo trasferimento, pretendere che ci fossero delle garanzie superiori. Non è stato fatto, hanno timbrato il loro documento e l'hanno passato avanti, adesso ci troviamo in una situazione e non sappiamo se il campionato è a 16 squadre, è a 15 squadre, se sarà a 16 per un mese, o forse troveranno i soldi, allora la squadra comincerà a giocare, quindi sarà il campionato, quindi sarà regolare, non è bello. No, è un clamoroso autogol. La presenza di Napoli, lo dico dal pronti via, la presenza di Napoli in questa stagione è stata chiaramente un errore. Peraltro in un contesto, quello campano, Luca, e oggi abbiamo intenzione di parlarne anche con gli ascoltatori, eventualmente 800 24 00 24, un contesto campano in cui c'è Avellino ritrovata, c'è Caserta che comunque dà l'impressione di costruire qualcosa di serio, di essere in costruzione qualcosa di serio. Ma certo, Avellino ormai è una di quelle società che può andare bene un po' o meno bene, perché un anno azzecchi l'americano, l'altro meno, insomma sono tutte squadre molto legate al mercato, però è evidente che ha un substrato che l'ha portata da due anni fa a vincere la Coppa Italia, insomma comunque è una società importante. Caserta è tornata, Caserta tra l'altro ha un grande pubblico, ha tanta gente che la va a vedere, adesso sta giocando anche bene, ha una squadra con delle valenze importanti, non solo perché noi siamo sempre tifosi un po' anche dei giocatori italiani, certo, e quindi vedere una squadra che con Di Bella, Michelori, sta facendo bene, fa ovviamente piacere. È chiaro. è chiaro che noi dobbiamo sempre considerare che in campagna o in certe regioni per far bene una squadra fa il doppio degli sforzi che da altre parti, e quindi ogni volta che riescono a ottenere qualcosa di particolare vanno veramente sostenuti, ed è veramente una cosa che vale, una cosa importante. Certo. Perché appunto tante volte logisticamente, anche solo è difficile, e chi ci riesce è bravo due volte. Grazie Luca, buon lavoro. Altrettanto, grazie a tutti, arrivederci. Grazie davvero a Luca Chiabotti, 800 24 00 24, numero verde per intervenire. E allora, visto che abbiamo cominciato a parlarne, lo facciamo sul serio. Saluto e ringrazio Cesare Pancotto, coach di Avellino. Cesare, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei. Sul piano personale direi che dopo la stagione più sofferta della sua lunghissima carriera, quella dell'anno scorso alla Fortitudo, mi sento di dire che questa Avellino è un premio meritato. La sente così? Diciamo che è ancora presto per tirare le somme, e diciamo che come dire, ci vuole più tempo per capire se quello che stiamo facendo avrà una continuità. Di contro però siamo partiti con grande determinazione, con grande qualità di gioco, con uno spirito da provinciale, con la convinzione che dovevamo lottare per non retrocedere. Questi valori ci stanno permettendo questa classifica che è meritata. Non siamo impazziti, questo è il playmaker di Avellino, questo è D. Brown, la nuova stella di Avellino. Cesare, che giocatore è questo? Allora, prima di tutto va inquadrato come un giocatore giovane che ha una energia, una voglia di emergere, un grande lavoratore, un grande motivatore, e soprattutto uno che ha voglia di migliorarsi e di migliorare la gente. Ma una cosa in più che scopro è la grande sensibilità umana che ha nei confronti di tutti. Con Trautmann avete ritrovato l'asse perfetto, playmaker pivot. Diciamo che è un investimento su cui stiamo lavorando. Io credo che stiamo trovando degli equilibri tra dentro e fuori, tra correre e camminare, e quindi questo asse oggi è il volano su cui costruiamo questi equilibri. Ecco, tra l'altro Trautmann è un giocatore abbastanza particolare, perché difetta di qualche centimetro, però ha un'esplosività davvero incredibile. Quindi già nella stagione che aveva fatto a Livorno aveva mostrato delle ottime doti. Oltre che di lui, volevo parlare con lei, coach, anche di Akiol, che è un giocatore importante per voi, che però in questo momento è infortunato e ne avrà per un po', mi pare. Sì, lui ha avuto la frattura del radio, ne avrà per una quarantina di giorni. È un ragazzo molto giovane che è considerato una promessa, come fatto giocare. Noi abbiamo avuto il coraggio quest'anno di prenderlo e di metterlo subito in quintetto base. Altro ragazzo interessante, altro ragazzo che ha voglia di lavorare e di migliorarsi, e questa è un po' la caratteristica di tutti quelli che fanno parte del nostro gruppo. Senta, seconda miglior difesa del campionato, la sua con Avellino. Questo è un segnale importante. Una squadra che ha un'ossatura straniera, gli italiani di nascita praticamente non ce ne sono, però lei è riuscito in così poco tempo a costruire la seconda miglior difesa del campionato. Sì, partendo dagli italiani e sentendo prima delle difficoltà che si possono riscontrare in campagna, la cosa grave è che quest'anno ad Avellino non volevano venire gli italiani, quindi noi abbiamo lavorato su quegli italiani, tra virgolette, che volevano sposare la nostra politica. Detto questo, la difesa pensiamo tutti che sia la parte fondamentale di una squadra per un'intera stagione, è un baluardo, un castello con il quale ci si può difendere da tutto e da tutti, dagli avversari, dai momenti negativi e da situazioni di partite che non possono essere considerate. Però insieme alla difesa stiamo cercando anche di costruire una grande qualità d'attacco fatta, dicevo prima, del gioco dentro fuori, ma fatta anche di grandi spaziature che ci permettono di attaccare sia all'interno dell'area dei tre secondi sia sul perimetro. Grazie coach, buon lavoro e complimenti. Grazie per a voi, quanto fatto fin qui. Tra l'altro, per completare il panorama dell'informazione che stiamo dando, Avellino ha sostituito Akiol con il francese Diarra, che è un'ala del 1980, quindi ha 2 metri per 100 kg, ex PAOK Salonicco, andrà ad Avellino fino a quando Akiol non riprenderà dal suo infortunio. Dunque, prima il presidente aveva detto che forse non avrebbero sostituito il giocatore, invece poi hanno trovato sul mercato quest'altro cestista che abbiamo visto tra l'altro con la maglia della nazionale francese, un buon comprimario che sicuramente può dare una mano a Pancotto nelle sue rotazioni. Fatti bravi, poi faccio risentire il rap di Brown. Continuiamo a parlare di basket campano. Tra poco sentiremo anche Fabio Di Bella. 800240024 è il numero verde. Oreste Caserta, buongiorno. Oreste, buongiorno a voi. Buongiorno. Mi sente? Sì, la sento. Buongiorno. Purtroppo è maltempo qui, perciò le chiedo se mi sente. Allora, complimenti per la trasmissione, finalmente si parla competentemente di basket. Sì. E poi volevo chiedere un pensiero a voi, e soprattutto visto che ho la fortuna di poterlo chiedere anche il mio capitano Di Bella, se finalmente quest'anno potremo rivedere qualche partita di playoff, con la speranza in futuro di vedere la grande Juve Caserta. Un saluto e buon weekend a tutti. Guarda, io... Ben indirizzata, sì, assolutamente. Ben indirizzata la domanda, è ben indirizzato il pensiero e ben indirizzata Caserta verso i playoff. Ripeto, secondo me l'aspetto importante è che Caserta comunque sta salendo una scala, la scala della crescita. Sì, ma come sentiremo da Fabio Di Bella, sono riusciti a trovare una grande coesione di gruppo e soprattutto hanno molto ben chiari quali sono gli step necessari da fare per arrivare a questo consolidamento del loro valore. Quindi obiettivo salvezza per Caserta, lo dirà anche Di Bella più tardi, ma secondo me ci si potrebbe togliere qualche soddisfazione. Stanno giocando sicuramente bene, però secondo me il valore aggiunto è proprio questo, il fatto che hanno la consapevolezza di dover continuamente lavorare tanto per mantenersi a questo livello. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io stamattina ho letto l'articolo di Chiavotti sulla Gazzetta e sono sinceramente trasecolato, nel senso che abbiamo avuto bisogno di 3 mesi per capire che a Milano Finley non è un play. Ci abbiamo messo 3 mesi. Che il backup di Finley è Bulleri, che non è un play. Sì. Che abbiamo... o le Mancinelli che non sono, cioè, che di fatto non sono 2-4, che Hacker forse aveva dei problemi di salute non da una settimana ma da un po' più di tempo. Sì. Io sono veramente, cioè, mi chiedo chi è che li ha comprati questi giocatori, cioè, perché questo poi il punto di domanda è, sinceramente io l'altra sera ho guardato la partita col Procom e per fortuna che poi ci ha pensato mia figlia a distrarmi, insomma, da questo punto di vista. Ma vede, il problema è vero, no, lei ha ragione, ma il problema è vero è che siamo qui al 6 novembre con un pessimo avvio di stagione che ormai è diventato un leitmotiv, no, perché anche l'anno scorso ce lo ricordiamo, l'avvio di stagione dell'Armani che fallì di fatto primo traguardo stagionale, cioè l'ingresso nel Final Eight di Coppa Italia, poi la rimontona in Eurolega, perché anche lì avevi iniziato con tante sconfitte, nessuna vittoria. Questa a 12 mesi di distanza è ripartita da capo, con grandi equivoci, con equilibri che ancora non ci sono. Insomma, poi Finley non è un playmaker, tanti soldi in meno, Finley non è un playmaker, Bulleri non è un playmaker, discutiamo anche sul ruolo di playmaker nel basket di oggi. Ad esempio questa settimana su Superbasket c'è un articolo interessante di Werner Pedrazzi, dice: ma cos'è il playmaker oggi? Non è più D'Antoni, non è più Calieris, è un'altra cosa. Finley è un grande realizzatore, usiamolo come realizzatore, non stiamo lì a dire sì, deve segnare, però deve anche far giocare gli altri. Insomma, piena di equivoci la stagione milanese, mi pare, fin qui, di equivoci di costruzione, di ideazione di questa squadra, che verrà per forza di cose ritoccata e forse anche rifatta, perché per l'infortunio di Hacker, per i problemi di Hall, eccetera, eccetera, eccetera, dopo i tanti quattrini spesi. Grazie, tornerei a Caserta perché voglio sentire cosa ha detto oggi Fabio Di Bella, capitano di Caserta. È stato un inizio di stagione, direi, positivo, nonostante la sconfitta in Montegranaro per 2 punti, comunque ci può stare. Siamo una squadra per 8 decimi nuova, siamo rimasti michelori dalla passata stagione, e la bravura dell'allenatore Sacripanti, del presidente Caputo, è stata quella di creare un gruppo, cercare giocatori che sotto il profilo umano e tecnico bene si integrassero tra di loro. Il feeling con Sacripanti è ottimo, cioè lui mi sta dando tanta fiducia, io penso di ricambiarlo domenica dopo domenica. E è un modo di giocare quello di Pino, in cui si premiano le iniziative individuali, si cerca di sfruttare il talento individuale, quindi all'interno di determinate situazioni di gioco, e in cui la difesa, l'aggressività e il contropiede sono armi importanti. Quindi voglio dire, il mio gioco è questo e mi ci trovo bene. La gente di Caserta si ama tanto, ti porti in alto, ma più che altro ama vedere la gente che gioca col cuore, che sputa sangue, quindi indipendentemente dai risultati. Nel momento in cui la squadra lotta, la squadra ci crede fino all'ultimo e perde, è capace di applaudire e di festeggiare allo stesso modo di una vittoria. L'anno scorso erano successi dei problemi, perché comunque in campo c'erano delle difficoltà, si vedevano, non c'era la giusta aggressività, si perdevano 3 partite di fila di 30 punti, e questo è inammissibile in qualsiasi campo. Per adesso, tolta Siena, tolta Napoli, vedo un grandissimo gruppone. Quindi l'obiettivo innanzitutto è la salvezza, perché comunque sia rimanere in Serie A è il primo obiettivo, anche per poi poter costruire nel tempo. Poi chiaramente la prima fase sono le finali di Coppa Italia, sarebbe un gran successo potervi partecipare. Se riusciamo a mantenere il fattore campo, quindi difendere le mura del Palamaggio, un pensiero alle finali si può fare, poi vediamo. Questo è il capitano di oggi, Fabio Di Bella. Invece io saluto e ringrazio l'allenatore che ha dato il primo e unico scudetto del basket casertano e campano, professore Franco Marcelletti. Buon pomeriggio, ciao, coach. Ciao, buonasera a tutti. Scudetto, unico scudetto del basket campano, datato 91, mi sembra però che adesso nel basket in Campania, poi parliamo di Napoli che è un altro caso, però Avellino, Caserta sono fiori che per il momento sono bellissimi, poi vediamo. Sì, sì, sono due squadre, secondo me innanzitutto sono state fatte molto bene, c'è un grande equilibrio in questi gruppi, sono dei gruppi compatti che giocano insieme. In entrambe le squadre i giocatori si passano la palla, si aiutano in difesa, e questo secondo me è merito di chi l'ha costruiti, cioè di Pancotto, di Sacripanti, Coldebella e poi il manager di Avellino, perché il problema tranne Siena è che ogni anno devi costruire quasi sempre una squadra totalmente nuova. Caserta è stata brava secondo me a tenere Di Bella e Michelori, che sono due italiani molto affidabili, e poi partendo da loro hanno costruito un bel gruppo. Franco, sei partito questa stagione allenando quell'utopia che rimane oggi il basket Napoli. Com'è andata poi? Perché io ancora non l'ho capito. Ma io preferirei non parlare, insomma, dato che la ferita è abbastanza fresca. Sì. Chiaramente ci sono tanti problemi che poi insomma partono da lontano, dall'esperienza di Rieti. Sì. Preferirei non parlare in questo, sì, momento. Io invece parlo e dico la mia, come ho sempre detto, siccome la presenza di questa realtà, se è una realtà nel basket italiano, è un errore, puro e semplice. Questo è il mio pensiero, la mia opinione. Che è anche che abbiamo ribadito più volte in questa sede, direi. Coach, le chiedo questo allora, lei ha potuto in qualche modo entrare nell'ambito di questo campionato, ci si aspettava molto da Milano, l'impressione però è che ancora quest'anno Siena, come diceva anche Di Bella prima, Siena faccia davvero un'altra volta una corsa a sé. La sua opinione a riguardo? Sì, sicuramente io ho giocato contro Siena e poi l'ho vista giocare spesso già in Eurolega, adesso in Supercoppa. Siena è l'unica squadra che ha la forza, la possibilità, il merito, dico pure di Minucci, di avere un nucleo di giocatori che è lo stesso ormai da qualche anno. In più hanno aggiunto 3 giocatori secondo me super ed esperti come Zizis, Hawkins e Marconato, per cui hanno soltanto migliorato. Io li vedo tranquillamente qualificati alle Final Four di Eurolega, che è il loro obiettivo, e poi spero anche per il basket italiano in qualcosa di più. Qui 20 anni fa c'erano tante squadre che avevano dei gruppi storici, dei nuclei, per cui c'era un'incertezza maggiore, c'era diciamo un basket giocato meglio perché i giocatori si conoscevano meglio. Adesso ogni anno devi costruire dei gruppi nuovi, e la stessa Milano mette insieme Finlay, i lituani che non hanno mai giocato insieme, Hacker, cioè non è facile, ci vuole tempo. Sira ha questo grande vantaggio che ha seminato bene, ha raccolto e poi inserisce pezzi importanti, perché Hawkins è il giocatore più forte di Milano, è andato lì, si è integrato in un gruppo, certo, lo sta facendo con umiltà, perché anche lui ha l'obiettivo di vincere. Certo, e secondo me, ripeto, farà la miglior stagione della sua carriera, perché questo è lo step di crescita che manca a un giocatore come David Hawkins. Coach, permettimi di essere ancora una volta un po' malizioso. Se Milano, lasciamo stare Napoli, se Milano e Roma fanno 2.000 spettatori, Roma sta andando bene in Eurolega, di stagione in campionato un po' un divago, però Bologna è mutilata, Siena è inavvicinabile, chi ha i soldi come Milano non ha i denti di un progetto vero, secondo me, allora dico, l'unica alternativa credibile come gestione è la via tracciata ad esempio da Biella, come gestione alternativa del basket italiano, la via tracciata da Biella o da Caserta o da Teramo o da questi club. Sì, sicuramente sono delle squadre che ottimizzano le risorse, il budget lo utilizzano benissimo, scelgono giocatori importanti, li valorizzano, voglio dire, Biella ha un giocatore come Smith ormai già da qualche anno, così come Teramo, Poeta e Amoroso. Ripeto, ci vogliono sempre dei giocatori validi, affidabili, umanamente solidi, dai quali partire, e queste squadre nel loro piccolo lo hanno fatto e lo stanno facendo bene. Quando Milano, ecco, avrà questa fortuna, questa capacità, abilità di riuscire, insomma, a trovare gli uomini giusti, anche lì però, voglio dire, uomini giusti, secondo me Rocca lo era e lo è, poi l'anno scorso ha avuto un campionato difficile, mordente, è un giocatore affidabilissimo, insomma, bisogna chiaramente avere un po' di pazienza da parte del pubblico, perché poi non ci dimentichiamo che l'anno scorso Milano, nonostante tutto, con tutte le critiche iniziali, arrivò alla finale scudetto. Grazie coach, buon lavoro. Grazie. Ecco che è arrivato anche oggi Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Dottor Genta. Dottor Tranquillo, abbiamo parlato tutto il programma di Napoli, basket campano, eccetera. Mi sei venuto in mente diverse volte quando, parlandone domenica scorsa, dicevi continuiamo così, facciamoci del male sulla vicenda Napoli. È difficile in questa vicenda riuscire a tener conto di tutte le sfaccettature. Di certo c'è qualcosa che non funziona, di certo il qualcosa che non funziona non è Napoli in quanto tale, meno che mai Napoli e la sua importanza per la pallacanestro italiana, e meno che mai i tifosi napoletani. Però qualcosa che non funziona c'è, se vogliamo far finta di non vederlo siamo liberi di farlo, o meglio, sono liberi di farlo quelli che lo fanno. Senti, io so che ci sono moltissimi nostri ascoltatori che stanno aspettando di dare un'occhiata all'America. Ti chiedo questo molto semplicemente: Bargnani, con 22 più 12 ultime super cifre stagionali, è diventato una star NBA secondo te, secondo la tua valutazione? No, perché secondo me 22 punti a partita non fanno una star NBA, e perché sono sempre stato convinto che nelle condizioni giuste Bargnani avesse facilmente 22 punti a partita nella NBA nelle mani, ma proprio facilmente. Diventerà una star, e può diventarlo il giorno che accoppierà assieme a quei 22 punti quelle piccole cose che fanno sì che quei 22 punti diventano 22 punti che tendono a farti vincere, non perché questi tendano a farti perdere, ma è diverso. Ci sono quelli che fanno 22 punti che tendono a farti perdere, Andrea non è uno di questi. Ci sono quelli che segnano 22 punti come Andrea e ancora non hanno imparato come fare di questi una condizione perché la tua squadra vinca. È lì vicino, è il giorno che lo impara, altro che star, superstar. Senti Flavio, volevo chiederti questo, allora a questo punto e seguendo questo discorso, le cifre di Danilo Gallinari a New York in una squadra di quel livello, che in questo momento è chiaramente una squadra perdente, come possiamo interpretarle? Chiaramente in maniera più obiettiva possibile, tenendo conto del fatto che siamo i primi tifosi di Gallinari. Questo con ovvio. Preoccupazione. Almeno per quanto mi riguarda. Come dicevano i politici una volta a Tribuna Politica, la ringrazio per avermi fatto questa domanda. Secondo me è davvero con preoccupazione, perché per esempio, avendo visto sabato notte i 30 e ancora di più i 22 di Miami all'esordio, sono punti fatti con riluttanza. Il sabato sera io ho visto quella partita, la domenica ero a Teramo, dove mi ricordo di aver visto Danilo Gallinari fare 29 punti, che è il suo massimo in campionato italiano, in una partita persa dall'Armani Jeans. 29 quasi fatti per disperazione, perché era un momento molto negativo per la squadra, e lui fece 29 perché non c'era altro modo di provare a vincere. Non è un giocatore che abbia nel DNA il fare 30 punti per fare 30 punti. Il giorno che Gallinari fosse nelle condizioni, nella squadra giusta, di fare 22 a partita veri, avrebbe meno problemi rispetto a Bargnani per farli diventare strumentali alla vittoria della squadra. Faccio una battutaccia, è che ci vuole la squadra e lì in questo momento purtroppo non c'è. Mi auguro che sia una situazione temporanea. Già stanotte, professore, Sky, appunto, no, io ti volevo dire, professore, che ho già preparato stamattina la caffettiera, l'ho messa lì, stasera l'accendo perché c'è LeBron a New York. Allora, 2007-2008 si è presentato lì, ne ha fatti 50, 8 rimbalzi, 10 assist. L'anno scorso ne ha fatti 52, 10 rimbalzi, 11 assist. Al di là di tutto, voglio vederlo stanotte. Sì, un minimo di pressione, un minimo di attenzione. E soprattutto io credo che stasera, indipendentemente da come finirà, possiamo provare a capire se qualcuno va dietro a questo benedetto Danilo, ovvero sia se qualcuno ha un minimo di rispetto per se stesso e per la propria professione vestendo la maglia dei New York Knicks, perché se non lo fanno stasera con tutti gli occhi dell'America e soprattutto tutti gli occhi di New York addosso, perché c'è LeBron con quello che significa per il futuro, il possibile arrivo, il sospirato arrivo, allora significa che veramente c'è qualcosa di serissimo che non funziona lì dentro. E in tutto questo, D'Antoni, come lo mettiamo, Flavio? Ti sta convincendo il lavoro di D'Antoni a New York, o c'è qualcosa da dire sul come D'Antoni sta gestendo queste stagioni di transizione? Mi fai una domanda quasi impossibile, perché ovviamente molto bene conosco la persona, molto bene conosco l'allenatore, è un po' difficile per me dare una risposta neutrale, tra virgolette. Ciò detto, io credo che non sia un problema di sistema, è che il personale non è adatto a giocare quel sistema, e questo potrebbe essere un piccolissimo limite. Le convinzioni di Mike sono fortissime, però con quel personale, anche indipendentemente da tutti gli altri discorsi, secondo me faticherebbe, certo, ad avere troppo successo. Ma soprattutto è una situazione difficilissima da gestire, perché l'anno passato e quest'anno, o meglio la stagione passata e questa stagione, sono due stagioni in cui quelli che sono lì, a parte alcune eccezioni, e Danilo è una di queste, sanno di essere lì in attesa di qualcosa. E costruire qualsiasi cosa, con qualsiasi sistema, con qualsiasi personale nell'NBA, in queste condizioni è difficile. Anche se sei positivo, anche se sei bravo, e io onestamente, e non perché è mio amico, credo che Mike sia A positivo e B bravo, ma lì è veramente dura. No, continuo a crederlo anch'io, perché non fosse altro, era il mio idolo di quando ero bambino, insomma. Walter D'Ancona invece farà la prossima domanda. Buongiorno Walter. Sì, senta, si parla di grandi giocatori, io per quello che riguarda la personalità, io penso che Ray Allen sia uno che può fare la differenza proprio sui punti della vittoria. Mi ricordo proprio 2 anni fa contro i Los Angeles Lakers, che nell'ultima gara portò il bambino la notte prima in ospedale e fece la notte in bianco praticamente, e poi nel primo quarto contro gli stessi Los Angeles subì un infortunio all'occhio, poi ritornò e lo score finale fu di 7 bombe con il record dell'NBA per le bombe realizzate, 7. Sì. Io penso che questi sono i grandi giocatori e vorrei una considerazione da parte vostra. Sì, gliela faccio fare da professore tranquillo, ma la NBA è straordinaria anche nel creare queste storie. Le ultime sono quelle di Nocioni, che è arrestato in stato di ebbrezza nella notte, di Delonte West, la sapete ormai, che girava con un arsenale in tasca, eccetera, eccetera, eccetera. C'è questa di Ray Allen, che però ha molto più a che fare col basket. Flavio. Sì, ha molto più a che fare col basket. Credo che le cose interessanti di quell'episodio, e in generale della parabola recente di Ray Allen, siano due. La prima, più generale, è: Ray Allen in un certo contesto, tipo la Seattle cadente che ha lasciato, o la Milwaukee per cui si è trovato a transitare, proprio transeunte, proprio come i giocatori dei Knicks in questo momento, sembrava un certo tipo di giocatore e di persona. Sì che tiratore, però tira sempre. Sì che grandissime uscite dai blocchi, però alla fine non fa nessuna differenza. A Boston, in un contesto di un certo tipo, con una leadership di un certo tipo, con un'organizzazione che vuole davvero provare a vincere un titolo e che è disposta a cavalcare Garnett, Allen, Pierce e l'allenatore Doc Rivers finché morte cestistica non li separi, naturalmente sembra un'altra cosa. E la seconda è: quando tu hai dei problemi di salute davvero seri, personali, che però sai irrisolvibili come quelli del figlio di Allen, secondo me, per paradosso, diventa più facile concentrarsi su una cosa che è molto terrena e tutto sommato va presa per il valore che ha, come la pallacanestro. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Flavio, abbiamo ancora 30 secondi, però una valutazione su una chiacchiera su Brandon Jennings la volevo fare con te. Gioca a Milwaukee, lo conosciamo bene, l'anno scorso a Roma un divago mai definitivamente consacrato. Ebbene, in queste primissime partite della stagione è primo come tra le matricole in punti, 22 di media partita, rimbalzi e assist, ripeto, tra i rookie dell'NBA. Probabilmente un giocatore fatto per l'NBA, nato per l'NBA. Beh, giocatore sicuramente più a suo agio con le spaziature NBA, le situazioni NBA, la possibilità di giocare più uno contro uno e meno uno contro due, uno contro tre, uno contro quattro, come gli capitava in Europa. Più equipaggiato mentalmente per giocare nell'NBA, più pronto ad accettare l'NBA di quello che non fosse ad accettare la logica del campionato italiano e anche qui più interesse dei Milwaukee Bucks nell'investire su un giocatore che rappresenta il loro futuro che non dell'automatica Roma nell'investire su un giocatore che chiaramente avrebbe passato nella capitale solamente una stagione. Non si tratta, credo, di scoprire Brandon Jennings oggi, a meno che qualcuno non prendesse Brandon Jennings solo per quello che faceva 3 punti a partita col 10% da 3 dello scorso anno. I 3 punti e il 10% da 3 c'erano, ma se qualcuno non vedeva un giocatore dietro quei 3 punti, dietro quel 10% da 3, secondo me il salame non lo usa solo per fare i panini. Grazie Flavio. A voi. Grazie, ci sentiamo domenica. Grazie a Flavio Tranquillo, a Flavio Suardi qui vicino a me, a Franco Piantaneda in redazione e a Paolo Corleoni in regia con lo sport. Torniamo dalle 5 alle 6. Vi aspetto.